questa ricostruzione, sì. Che desideri nuovi ha mosso all'interno di chi ha fatto il progetto EVA? Mm-hmm. Qual è, credo che abbiate un'idea diversa di quello che era prima, in qualche modo, il territorio di quel pezzo d'Abruzzo. Il tema che ponevi sul locale è assai interessante proprio di suo, no? e la narrazione sarebbe un po' articolata, perché diciamo, un'altra scommessa che stiamo facendo è che dentro il progetto ci sono sia persone che abitavano in paese e hanno scelto di rimanere a vivere in paese, sia persone che c'erano andate a vivere da poco e hanno scelto di non abbandonarlo, sia persone che si stavano avvicinando e hanno colto questa occasione per venire a vivere su. Però adesso raccontarti ogni singolo pezzo diventa folle. In termini generali, così, credo che l'evento catastrofico ingeneri una sorta di sospensione temporale delle coscienze. C'è una sorta di spazio che non è solamente temporale, proprio dentro la testa di ciascuno, in cui hai chiaramente la percezione che nulla sarà più come prima e che ciò che farai a questo punto dipende esclusivamente da te, dalle scelte che fai insieme con altre persone. Puoi scegliere di aspettare, puoi scegliere di non aspettare e andare avanti da solo, puoi scegliere di non aspettare e parlarne con altri per andare avanti. E, la dimensione culturale è un recupero che fai. Tanti terremotati, adesso togliamo l'avverbio perché poi insomma, la quantità dovrebbe vedere. Comunque una reazione possibile che si è verificata è che rispetto alla distruzione della propria casa, del proprio paese, in cui magari si viveva da 4, 5, 6, 8 generazioni, alcuni terremotati hanno reagito benissimo all'idea di andare a vivere in un bel complesso condominiale nel nulla, con le tende scelte dal Presidente del Consiglio, la televisione al plasma e tutto quello che ti puoi immaginare di anti rispetto al tipo di vita che conducevano precedentemente. Altre hanno fatto una scelta opposta, per esempio le tendopoli sono potute chiudere solamente alla fine di ottobre, perché, anzi alcune veramente il 15 di novembre, perché le persone che erano lì rifiutavano anche solamente andare in albergo a 25 km di distanza da quel posto, perché lo sentivano come un'espropriazione di quel poco che gli era rimasto di senso. Quindi diciamo, come si reagisce culturalmente, tra virgolette, all'evento è assai relativo. C'è sicuramente una fase in cui salta tutto e poi c'è come si esce da questo stato di sospensione? Le reazioni individuali sono sostanzialmente di due tipi: o cercare di ricucire quando si esce, perché c'è anche chi non esce per niente. Cioè, di 70.000 terremotati, una significativa componente sono ancora in sindrome traumatica, in stress post-traumatico, e non è che abbiano ancora ben chiaro, quindi magari la casa loro è demolita e loro continuano a tornare ogni giorno a vedere la loro casa demolita e a cercare di recuperare una pietra in più, e stiamo parlando di dicembre, cioè 6 mesi e mezzo dopo il terremoto. Però diciamo, quando esci da questo stato di sospensione, che è auspicabile, puoi scegliere se ricucire con la tua vita precedente oppure fingere che non ci sia stato nulla prima. La nostra è stata, da questo punto di vista, una scelta tra virgolette politica, cioè ci è sembrato perché il lavoro è un lavoro collettivo, ci è sembrato che l'unica cosa che per noi potesse avere un senso era di ricucire anche con quello che c'era prima. Dopodiché appunto il locale è un campo di relazioni, non è una serie di pietre una sopra l'altra che devono rimanere così in eterno, perché quello è il senso della vita profonda, no? Un'ottima arena, non so come dire, no? Esattamente, l'importante però quello che ci sembrava importante era non perdere il filo, perché altrimenti avresti una community che potresti collocare su qualsiasi sito, punto e basta. E invece quella è una cosa diversa, con un diverso rapporto con la terra su cui sta. Siamo due polarità da tenere insieme, non è senso? Sì, assolutamente. Sì. Non so perché ho risposto. No, assolutamente. Grazie mille ad entrambi. Ci sono domande, interventi, questioni?